Sono stata un po' stupita anche dalla reazione del Partito Democratico, questa volta lo devo dire, nel senso che lo stesso Andrea Colombo, che aveva presentato degli emendamenti, aveva motivato gli emendamenti dicendo che c'era bisogno di esprimere una visione di insieme su Piazza Verdi, di non andare a toccarne una piccola parte lasciando scoperto il resto. E io condivido questa logica e proprio per quel motivo, infatti, ho votato contro. E al di là della soluzione proposta in questo caso, che mi sembra abbastanza inutile, un po' risibile, mi pare davvero miope tutte le volte che si va a parlare di Piazza Verdi andare magari a cercare una piccola soluzione del problema, andare a appunto modificare un pezzo di Piazza Verdi. È un po' come chi ha commentato la presenza della tenda sotto al tetto comunale dicendo basta, va tolta, come se spostare la marginalità in periferia rispetto al centro e quindi spostarla dall'attenzione del turista fosse la soluzione del problema. È sempre questa logica del nascondere tutto sotto il tappeto che mi pare davvero molto miope. E sono anche amareggiata perché noi molte volte abbiamo proposto soluzioni con una visione un minimo più ampia su Piazza Verdi, che invece sono state bocciate senza neanche un emendamento, senza neanche discuterle. Beh, ieri ho ricordato l'ordine del giorno in aula, ce n'erano vari nostri sul tema, ma uno in particolare che proponeva anche poi di prendere in esame la figura del sindaco della notte, che è una figura che ha avuto molto successo nella regolamentazione dei tempi di vita in altre città europee. Oltre a questa proposta chiedeva anche un tavolo, una riflessione fra tutte le forze che vivono quella piazza, dagli studenti ai residenti, agli esercenti. Non è possibile tutte le volte andare magari sull'onda del momento a proporre una piccola soluzione, poi in questo caso anche a mio parere inutile, pensare allora di aver tamponato la situazione di Piazza Verdi. Non è una situazione tamponabile, è una situazione che va davvero presa in esame e amministrata. Ieri nel dibattito il consigliere Persiano ha ricordato che l'amministrazione ha avviato su quell'area una programmazione estiva che ha intenzione anche di estendere appunto durante l'anno. Quello può essere un modo per affrontare la questione? Sicuramente è un modo migliore appunto di un lavaggio delle strade anticipato, nel senso che a nostro avviso le soluzioni, quando c'è una zona critica, devono sempre andare verso una maggior partecipazione e vita in quella zona, perché partecipazione e sicurezza, non c'è nulla di più sicuro di una zona frequentata banalmente. Però ecco, non è l'unica e magari va anche regolata e progettata di più con il territorio. A quanto ho sentito la sperimentazione del Guasto Village, io devo dire, ho sentito commenti positivi, però molti esercenti della zona o residenti magari di qualche via un poco più in là lamentavano di non essere stati coinvolti e sentiti. È appunto una zona che va vista nel suo complesso e anche le soluzioni positive, mi viene da dire, non possono essere solo per dei piccoli pezzi, bisogna fare davvero un ragionamento complessivo, è l'unica via d'uscita. Tornando al discorso macro, ovvero quello della, come dire, dell'emarginazione di chi è già è marginale, uno strumento del genere, come dire, conta di andare solo in quella direzione? È sempre il problema del allontanare il problema e pensare di averlo risolto, come dicevo prima. E a mio avviso è una grande spia di accensione di un problema il fatto che ci sono persone senza casa, persone in situazioni di marginalità, soprattutto con la chiusura dei servizi di prossimità che sta portando avanti questa amministrazione. Mi viene da dire, non si può da una parte chiudere un CERT e dall'altra lamentarsi dei tossici tornati o in aumento nelle strade della città, cioè è veramente schizofrenico come comportamento. Se c'è un problema proprio da amministrazione, allora andrei a cercarne la radice, a cercare di risolverlo, non a spostarlo. È un po' la logica che ormai purtroppo galoppa, imposta dal decreto Minniti Orlando. Ho un problema da un Daspo urbano e lo sposto in un'altra zona, in un'altra città, ma non lo stai risolvendo purtroppo.